cassa le tasche piene. Colpite di anni schicchigilli che venga qui, con la lauretta c'è rinuncio di poco che l'aspetta. Fate due popolini, comprati con fortini. Ai miei cugini, Vita e Simone. Povero Buoso! Povero Buoso! Tutta la cera tu devi avere. Insino in fondo si deve struggere, sì. Godi, godi, povero Buoso. Povero Buoso. Se m'avessi lasciato quella casa, questa casa, e mulini di signa, signa. Poi la musica m'avessi lasciato. Non i mulini di signa. I mulini di signa. I mulini.